Dunque presentai domanda per un concorso pubblico nella mia regione. In barba alle leggi italiane ed europee, la commissione mi negò di partecipare al concorso, in quanto la mia laurea, secondo tali signori, non sarebbe stata equivalente. Naturalmente feci causa in tribunale, causa che, a distanza di anni, è ancora in corso. In seguito venni a conoscenza di parecchie polemiche legate al concorso, per il quale le lauree di ammissione erano state scelte in modo strano, insomma, il solito concorso ad personas. Poco male, perché poco tempo dopo ricevetti un'offerta da un centro di ricerca internazionale. Stipendio il quadruplo. Rimasi quindi all'estero, a lavorare su un acceleratore di particelle. Per la commissione del concorso italiano non ero qualificato neppure per mettere le mani sui PC della regione. Terminato il contratto, ebbi notizia della costituzione di una società in-house nella mia terra per la gestione di tutta l'infrastruttura tecnologica. Per me si trattava di una bella opportunità per fare qualcosa per il mio paese e magari fare carriera grazie alla mia esperienza internazionale. Traslocai e tornai in Italia. Credimi, mi è difficile esprimere a parole la delusione e lo schifo provati durante questa esperienza. La società si rivelò essere il solito carrozzone messo in piedi dal politicante di turno per piazzare gli amici e fagocitare valanghe di soldi pubblici. La baracca era gestita da incompetenti che, tra disorganizzazione e mobbing, riuscì a sbarazzarsi della gente migliore, sia sul piano umano che su quello professionale. Alcuni di questi ragazzi ora lavorano all'estero e non credo torneranno. Il mio capo, un somaro ignorante pluriraccomandato che non aveva neppure fatto il liceo, fece di tutto per mobbizzarmi e umiliarmi durante il tempo che passai lì dentro. Puoi immaginare cosa accadde dopo. Finii di lavorare, caricai l'auto di masserizie e varcai le Alpi. Morale, adesso lavoro di nuovo all'estero e ne sono felice. So che non tornerò mai più in Italia, a parte per vacanze e visite alla famiglia. Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Veniteci a visitare sul gruppo aperto all'interno del portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti. Soprattutto non dimenticate di visitare il blog ufficiale aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Qui postiamo le lettere, gli spunti e le riflessioni che ci inviate settimanalmente per email. Giovani Talenti rilancia anche la campagna d'estate. Siamo alla ricerca di nuove storie da raccontare nelle prossime settimane. Se siete under 40, espatriati nei più svariati settori professionali per vedere riconosciuti merito e competenza all'estero, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Aspettiamo le vostre lettere. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buon Ferragosto da Sergio Nava.